piano. Di Enrico Ruggeri. Azzurro, giallo, nero, verde e rosso. Questi sono i colori dei cinque cerchi olimpici che compongono la bandiera delle Olimpiadi. È il più grande evento sportivo di sempre, che dal 1896, per ogni quattro anni, escluse le due guerre mondiali, ha catalizzato l'attenzione sportiva di tutto il mondo e ha messo a confronto, insomma, lo sapete, i più forti atleti di ogni paese, con sport di squadra, con sport individuali, con sport molto popolari, ma anche con sport dei quali noi ci innamoriamo durante le Olimpiadi per poi dimenticarci per quattro anni di fila. E poi c'è l'atletica leggera, che è la disciplina olimpica, diciamo, per eccellenza. È anche vero che negli ultimi anni noi parliamo tanto dei fallimenti calcistici, ma in atletica leggera sono veramente tanti anni che noi italiani non arriviamo al vertice, non c'è né movimento di base né qualche eccellenza. E invece ci sono stati anni nei quali l'atletica leggera italiana dettava leggi o comunque segnalava grandi personaggi. Per esempio negli anni 80 ce n'erano parecchi di grandi atleti italiani, in particolare ce n'erano due, un uomo e una donna, che hanno rappresentato il nostro paese in modo vincente, hanno vinto medaglie, hanno stabilito record mondiali. Lui è Pietro Mennea, lei è la protagonista della nostra storia di oggi, la campionessa di salto in alto per eccellenza, Sara Simeoni. E partiamo dall'Adige, un fiume storico che scorre lento attraverso la provincia di Verona, lascia le colline del Bardolino per arrivare in pianura all'altezza di un paese di poco più di 2000 anime. Si chiama Rivoli Veronese. È un luogo celebrato dai francesi con Rue de Rivoli, a ricordare una delle tante vittorie di Napoleone contro gli austriaci. Un paesino di provincia, a due passi dal lago di Garda, fatto di gente tranquilla, il nord-est operoso, grandi lavoratori. Il 19 aprile 1953 nasce qui a Rivoli Veronese Sara, terza di quattro figli. Siamo in campagna col bosco dietro casa, però per cominciare ad andare a scuola bisogna trasferirsi a Verona, sono 25 chilometri, tutte le bambine dell'epoca devono andare a Verona, e lì ci sono anche le prime passioni. C'è la bambina che fa il corso di musica, quella che frequenta danza. A Sara piace ballare, lei è magra, ha un fisico adatto, insomma pensa di averlo, fino a quando viene scartata perché è troppo alta per la sua età, perché a 13 anni è già 1,70 m, e così, grazie alla sua insegnante di ginnastica, comincia a avvicinarsi all'atletica. Le fanno provare il salto in alto, lei salta 1,15, miglior prestazione italiana di categoria, con i professori che impazziscono di gioia, lei che non capisce bene come mai tutti si entusiasmino per una cosa che a lei riesce così semplice. Quando ero un adolescente, nessuno mi ha detto che potevo diventare un atleta da record. La prima volta che ho saltato è andata bene, e allora ho continuato a saltare anziché correre o altro. Peraltro mi piaceva e soprattutto non volevo deludere la mia famiglia, che fin dall'inizio ha sostenuto il mio percorso. Venivano tutti a vedermi alle gare. Era sempre una festa. 1,78 m, scarpe numero 41, i compagni che la soprannominano la spilungona, lei che non se la prende perché ha un carattere gioviale, ha sempre il sorriso sulle labbra, sogna a occhi aperti di riuscire a volare come una rondine, di guardare il mondo dall'alto. Il salto in alto in fondo è la disciplina atletica più simile al volo, e Sara Simeoni decide di continuare a migliorare proprio in questo sport. I primi salti lei li fa in stile frontale, a piedi uniti, partendo da ferma, e poi bisogna cominciare, insomma, a capire che si può capitalizzare il proprio fisico in maniera diversa. Si passa alla sforbiciata, e lì però ogni salto è anche una prova per vincere la paura di farsi male, perché a quei tempi, quando c'era la sforbiciata a metà degli anni 60, si atterrava sulla terra battuta, sulla sabbia al limite, come nel salto in lungo, non c'erano ancora i materassi, e quindi si saltava o con la sforbiciata oppure con lo stile ventrale, e quindi ci si faceva male, insomma ogni atterraggio poteva provocarti un bel livido. poi nel 1968 accade nel salto in alto una rivoluzione epocale, perché a Città del Messico arriva un americano, uno studente di ingegneria, si chiama Dick Fosbury, e questo Dick Fosbury salta in una maniera completamente diversa. Io mi ricordo le figurine Panini che mostravano le otto figurine che mostravano il salto alla Fosbury, una vera e propria rivoluzione. Lì si salta, si va con la schiena, si passa l'asticella con la schiena, viene deriso Fosbury, poi intanto in Messico vince la medaglia d'oro e poi comincia a fare proseliti, perché anche gli altri saltatori capiscono che possono usare la loro forza fisica per passare l'asticella in questo modo. Comincia a provarci anche Sara, riempie un sacco con dei ritagli di gomma piuma per non farsi male, perché lì si atterra di schiena con il salto alla Fosbury, e i risultati sono sorprendenti. Nel 1970 lei ha 17 anni, partecipa ai campionati europei juniores a Parigi e arriva quinta saltando 1,70 m. I cronisti dell'epoca scrivono che il futuro dell'atletica ha trovato una speranza. In realtà sono due le speranze, perché bisogna ancora una volta ricorrere a questo parallelismo, due vite che scorrono una a fianco all'altra, perché oltre a Sara Simeoni c'è anche in quella manifestazione un ragazzo che arriva da Barletta sempre imbronciato, l'esatto opposto di Sara, è un ragazzo che corre molto veloce, si chiama Pietro Mennea. Abbiamo fatto un percorso insieme e abbiamo condiviso le stesse gioie direi, perché ci siamo un po' inseguiti, ho passati il testimone durante competizioni e gare, quindi siamo stati un po' di stimolo uno per l'altro, perché credo di essere stata di stimolo anch'io per lui in un momento particolare. Entra in scena un allenatore, si chiama Walter Bragagnolo, lui vede una potenzialità enorme nelle gambe lunghe e sottili di Sara Simeoni, nel suo carattere, nel suo stile atletico. Bisogna solo raffinare la tecnica, bisogna vincere la paura di farsi male, che costringe Sara a saltare con le braccia chiuse, pronte, come dire, a sostenere la caduta. Ma non ci vuole molto per capire che con un giusto allenamento lei può diventare veramente una grande atleta. Così comincia a allenarsi in modo continuativo e i risultati arrivano. A Helsinki nel 71, ai campionati europei, Sara Simeoni arriva nona, ma stabilisce il nuovo record italiano di salto in alto e arriviamo a 1,78 m. Un buon segno, perché manca solo un anno alle Olimpiadi di Monaco. Per qualificarsi alle Olimpiadi bisogna saltare 1,80 m, bisogna superarsi di 2 cm rispetto a Helsinki. Sara Simeoni centra questo obiettivo e va alle Olimpiadi. Mi sentivo decisamente spaesata. Credevo che l'Olimpiade fosse qualcosa per pochi intimi. Potevo vedere da vicino come si allenavano le mie avversarie, eppure, malgrado fossi così diversa da loro, sono riuscita a fare 5 cm in più del previsto, piazzandomi al sesto posto con 1,85 m. Un nuovo record italiano raggiunto solo con l'entusiasmo, per essere in una realtà sconosciuta. Lì ho capito che sarebbero bastati altri 3 cm per salire sul podio e che quindi non era una cosa così impossibile. Questi ricordi sono tratti dalla biografia dedicata a Sara Simeoni, scritta da Sarina Biraghi per Maria Pacini Fazzi Editore. Un libro in cui si racconta anche delle due grandi rivali di Sara Simeoni. Sono due tedesche, parlano tedesco entrambe, ma arrivano da due stati molto diversi in quegli anni. Una gareggia per la Germania Ovest, si chiama Ulrike Meifert, l'altra per la DDR, la Germania Est, si chiama Rosemarie Ackermann. E poi una salta Fosbury, l'altra ventrale. Nel 72 l'oro lo vince la Meifert, che ha solo 16 anni. 4 anni dopo sarà la Ackermann a salire sul gradino più alto del podio a Montreal. Le tedesche? Non è come ora. Prima si parlava poco tra di noi. Un saluto piuttosto freddo della Ulrike, più gentile la Ackermann, che però, essendo una della Germania dell'Est, era controllata a vista. Poi dormivamo in zone diverse. Non c'era proprio modo di stare insieme. Nel frattempo, nel salto in alto, ci sono tre signori in Italia che si dividono la torta. Uno si chiama Giacomo Crosa e fa il commentatore televisivo, l'altro è un signore che si chiama Dal Forno, ma soprattutto c'è lui, Erminio Azzaro, un saltatore in alto che si sta insinuando nel cuore di Sara Simeoni. Gli piace sperimentare nuove tecniche di salto e trova con questa saltatrice un'intesa perfetta, prima a livello sportivo, ma poi soprattutto a livello personale. E Sara Simeoni gli pone un ultimatum: o mi alleni tu oppure smetto. E quindi sport e amore che si intrecciano. Azzaro, per non perdere la donna che ama, ma anche per non far perdere all'Italia un atleta di così grande spessore, accetta il nuovo incarico e si salta Fosbury. Quindi è uno stile ancora semisconosciuto, non ci sono manuali che spiegano come si fa. Sara e Erminio cominciano a sperimentare, studiano i pochi filmati esistenti, apportano modifiche per adattarle ai movimenti del corpo, alla morfologia della Simeoni. Il movimento del braccio viene ampliato, si contano i passi della rincorsa, 8 la rincorsa breve, 12 quella lunga. Dopo l'Olimpiade di Monaco si pensa subito a Montreal 76, i due si trasferiscono a Formia, alla scuola nazionale di atletica leggera. A Formia questa nuova coppia del salto in alto viene vista con molto scetticismo, intanto perché pochi credono che un legame sentimentale possa anche dar vita a un legame professionale, e bisogna solo rispondere portando dei buoni risultati. E loro stanno preparandosi per i nuovi appuntamenti agonistici. Azzaro è un innovatore dal punto di vista degli allenamenti, fino a quel momento non c'era una vera e propria metodologia specifica per l'atletica femminile, si partiva da quello che facevano i maschi, si riducevano un po' i carichi di allenamento e tutto finiva lì, mentre la muscolatura femminile ha bisogno di una preparazione specifica per evitare gli eccessi che poi hanno caratterizzato la struttura fisica dell'atleta dell'est. Se poi decidi di non ricorrere al doping, la fatica è doppia, e quindi in questo caso la coppia Azzaro Simeoni deve affrontare grandi difficoltà. Poiché questo stile Fosbury era una novità, non ne sapeva niente nessuno di come allenare, quindi, capito, si partiva. E però questo è stato importante per cercare di collaborare fra tecnico e allenatore, anche attraverso sensazioni che probabilmente tra un allenatore e un tecnico, senza un rapporto, diciamo, di amicizia profonda, ecco, magari non ci sarebbe stato. L'atleta magari avrebbe subito e basta un certo tipo di allenamento. Agli europei del 74 a Roma Sara va a casa con la medaglia di bronzo, ma soprattutto salta 1,89 m, quindi è una progressione continua. Naturalmente nel salto in alto, insomma, non basta l'allenamento per incrementare l'altezza, perché ogni salto ha una sua storia, dipende da variabili infinite: il clima, la struttura della pedana, la posizione del piede al punto di stacco, ogni movimento del corpo deve essere sincronizzato. E poi c'è l'istinto, che ha un peso importante: una minima variazione che può essere decisa in una frazione di secondo può portarti al successo, all'errore, perché basta 2 centimetri con i quali sfiori l'asticella e tutta la tua fatica va perduta. A Monaco Sara Simeoni era la speranza azzurra, a Montreal è una promessa da mantenere, e siamo su una pedana resa viscida dalla pioggia che era caduta a lungo prima della gara. Falcate di Sara molto lunghe che precedono il salto dell'asticella, che è fissata a 1,90 m. Questo salto per lei vorrebbe dire argento, e così è la sua prima medaglia olimpica. Sul podio più alto, l'abbiamo detto prima, va la Ackermann, che un anno dopo con 2 metri stabilisce il nuovo record del mondo, il nuovo muro da abbattere. Dopo le Olimpiadi ci sono altri appuntamenti. Poi nel 1978 a Brescia c'è uno dei tanti meeting internazionali, pochi giornalisti, neanche tanti spettatori e solo una televisione locale che riprende l'evento. Nessuno si aspetta che in quel caldo pomeriggio di agosto Sara Simeoni stia per vivere il suo più grande colpo d'ala. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di una ragazza della provincia di Verona che si appassiona all'atletica e soprattutto al salto in alto, la storia di Sara Simeoni, che diventa un simbolo dello sport italiano, un simbolo delle donne italiane. Nel nostro racconto siamo arrivati al momento in cui ha perfezionato da poco lo stile Fosbury e ha raggiunto un primo traguardo importante, la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Montreal del 76. Ma molti cominciano a capire che probabilmente questa non sarà l'unica medaglia olimpica per Sara Simeoni. Ma intanto è il 4 agosto del 1978, siamo allo stadio di Brescia, c'è un meeting tra Italia e Polonia, pochi spettatori sugli spalti, una TV locale che sta riprendendo l'evento. Sara non è al massimo della forma, o almeno crede di non essere al massimo della forma, e partecipa per fare punti, per aiutare la squadra. Si comincia a saltare 1,80, poi 1,85, 1,89, mancano 2 centimetri per ripetere il risultato di Montreal. Lei ormai ha vinto, quindi può far mettere l'asticella dove vuole lei, e quindi fa mettere l'asticella a 1,93. Primo tentativo fallito, al secondo l'asticella rimane al suo posto. Il pubblico comincia a capire che sta succedendo qualcosa di unico, comincia a incitare Sara, che a quel punto prova a superare il record italiano che lei stessa aveva portato a 1,97. Cosa fa? Mette l'asticella a 1,98 e passa ancora. A questo punto siamo quasi al tramonto, non c'è molto tempo per fare altri salti in condizione ottimale, e nel frattempo però Azzaro sta vedendo tutto, ovviamente la sta seguendo, e ha visto che quando lei ha saltato 1,98 è passata di molto, è passata con molta sicurezza, e a quel punto le chiede di portare l'asticella a 2,01 metri, cioè un centimetro in più del primato del mondo della Ackermann. Il pubblico ammutolisce, c'è un silenzio surreale nello stadio di Brescia. 8 passi di rincorsa, stacco, l'asticella che trema, sfiorata dal polpaccio, ma rimane al suo posto, e le lunghe braccia di Sara Simeoni si possono alzare verso quel cielo che lei ha sfiorato con un salto che le vale il primato del mondo. È stata una bella sensazione. Ho cominciato a piangere dal momento in cui mi sono resa conto di quello che avevo fatto. Poi ho visto i miei genitori che non mi avevano detto che sarebbero stati lì e invece avevano fatto in tempo a vedere il salto, quindi non riuscivo più a fermare le lacrime. E nessuno si aspettava un record del mondo in una competizione ignorata da giornalisti e da televisione. È un volo oltre la storia, viene definito. C'è qualcuno però che è scettico, solleva dei dubbi, perché dice che è facile realizzare il record in casa propria, con magari i giudici di gara che sono stati un po' superficiali e accondiscendenti. Bene, il 31 agosto del 78 lei zittisce tutte le polemiche, perché va a Praga e davanti a tutte le telecamere del mondo vola ancora a 2,01 metri. Ho rifatto il record del mondo, fortunatamente all'estero, perché, capito, si incominciava a dire ma l'hai fatto a casa tua, perciò mettevano anche in dubbio. Invece l'ho rifatto in un'occasione importante, ho vinto e ho battuto la rivale numero uno, che era la tedesca Ackermann, no? In una gara molto bella, e dove l'unica volta mi sono sentita di essere invincibile, nel senso che io ho augurato veramente alla mia avversaria di saltare quello che voleva, perché tanto un centimetro in più l'avrei fatto io. Però un salto azzeccato è anche frutto di un momento nel quale, come dire, tutti i pianeti si allineano, tutte le componenti vanno a tuo favore. E non è detto che se hai saltato 2,01 m poi per tutta la vita, tutte le volte che salterai, potrai arrivare a 2,01 m. E infatti c'è un momento di difficoltà nelle gare successive, e momento di difficoltà che diventa pericoloso perché si stanno avvicinando le Olimpiadi di Mosca, e lì bisogna ritrovare fiducia e andare magari a salire ancora su quel podio. E intanto però la politica internazionale entra, come dire, a gamba tesa sull'organizzazione delle Olimpiadi di Mosca, perché pochi mesi prima dell'inizio delle gare gli Stati Uniti e altri 65 paesi, diciamo del cosiddetto blocco occidentale, decidono di boicottare i giochi olimpici per ritorsione sull'invasione dell'Afghanistan da parte dell'allora Unione Sovietica. Poi ci sono dei paesi che mantengono un atteggiamento più neutrale, sono 15 paesi della NATO, compresa l'Italia, che rinunciano ufficialmente a partecipare, permettendo però ai loro atleti di gareggiare sotto i colori della bandiera olimpica, quindi niente tricolore, niente inno nazionale, soltanto lo sport. Sara Simeone si è preparata a lungo al momento che sta per arrivare. Siamo alla sera del 26 luglio 1980, si entra nello stadio Lenin di Mosca per la finale di salto in alto. Quella gara io l'ho vissuta a livello emotivo in un modo molto forte, proprio perché avevo fatto il record del mondo, ero la più forte e non volevo perdere. A livello emotivo è stata forte. Nel momento in cui sono entrata praticamente in campo, lì non sapevo come fare, mi sentivo svenire, mi sentivo che mi veniva da piangere. Cioè proprio avrei voluto sapere come era andata a finire la gara in anticipo. Bene, bene, bravissima, brava! Quindi rimasta in gara Sara Simeone e la Kilan, terza prova, fallito! Oro, medaglia d'oro, Sara Simeoni. È una finale difficile, si capisce subito che si andrà a vincere magari anche con una misura inferiore ai 2 metri, tant'è vero che l'Ackerman a 1,91 è già fuori, si ferma. Vanno avanti in tre, la polacca Kilan, la tedesca dell'est Kirst e lei, Sara Simeoni. Si racconta che Azzaro a un certo punto le urli: svegliati, perché la posta in gioco sta diventando altissima. A 1,97 due atlete si fermano, solo una passa quell'asticella, è lei, è Sara Simeoni, che esplode di gioia, va a abbracciare le rivali, si siede per terra con la testa chiusa tra le braccia per assaporare l'intensità di un momento che deve essere meraviglioso, la soddisfazione di aver vinto per il tuo paese la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato la nostra protagonista di oggi con le mani tra i capelli, ancora incredula per quello che il destino e la sua bravura le ha riservato: la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca. È un colpo d'ala, un colpo di reni in questo caso. In questo momento lei è l'atleta italiana donna più rappresentativa nel nostro paese, mentre l'atleta italiano uomo è, come dire, il suo gemello di carriera, Pietro Mennea. Anche lui ha appena vinto la medaglia d'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Mosca. E i due campioni vengono presentati da Primo Nebbiolo, presidente della FIDA, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, come gli alfieri di questo sport. Sono anni in cui tutta l'atletica riceve un beneficio dalle vittorie di questi due campioni, cresce lo spirito di emulazione nelle scuole, i ragazzi che praticano più sport, l'atletica che diventa oggetto delle attenzioni di nuovi sponsor, il CONI che costruisce nuove palestre, nuovi impianti. Bene, tutto questo lo si deve anche, almeno al 50%, a Sara Simeoni, è un artefice di questo movimento culturale che pervade l'Italia degli anni 80. C'è da chiedersi come hanno fatto negli ultimi 15 anni, dalle parti del CONI, a rovinare tutto e a creare un movimento, anzi a distruggere un movimento atletico che ormai è totalmente inesistente. Comunque ci sono dei detrattori, come sempre accade. C'erano quelli che sostenevano che le Olimpiadi di Mosca erano comunque delle Olimpiadi dimezzate, con molti antagonisti esclusi, però dipende, bisogna guardare di disciplina in disciplina. Per esempio, parlando di salto in alto, la realtà era ben diversa. Non ci sono scontri diretti come in una partita di tennis, non ci sono punteggi a livello di squadra, c'è solo un'asticella, un salto da fare, e alla base di tutto questo c'è soprattutto un grande sacrificio, e noi siamo convinti che anche senza boicottaggio Sara quella medaglia l'avrebbe portata a casa. Il sacrificio dipende dalle scelte, perché quando si vuol cercare di fare una cosa bene, magari rinunci a una cosa per approfondirne un'altra. No, non basta più solo l'allenamento, ma come dico ai ragazzi, quando vuoi migliorarti e raggiungere dei risultati, è proprio uno stile di vita che deve contribuire, se no tutto quello che hai fatto lo cancelli, capito? E lo stile di vita vuol dire andare a essere riposati per potersi allenare bene, mangiare in un modo corretto perché così l'allenamento, cioè riesci ad allenarti senza essere appesantito. Insomma, ci sono tante cose. Insomma, una vita dedicata allo sport, questo è il denominatore comune di tutti i grandi campioni, quelli che hanno ottenuto grandi risultati sportivi. E beh, l'unico vero nemico da combattere per Sara Simeone, in realtà per tutti gli atleti, in realtà per tutti noi, non sono le avversarie, ma è un nemico che si rinforza col passare degli anni, il tempo. E poi nel caso degli atleti la cosa peggiore è più difficile, perché la vita agonistica di un atleta è molto breve. Nel 1980 lei ha già 27 anni e capisce che ha ancora a disposizione al massimo un'Olimpiade, quella di Los Angeles del 1984. Il tempo non potrà concederle un'altra occasione. Now, Sara Simeone, the real love of Italy, the European. Sara Simeone is in great pain. What a tragedy. You can see that she jumped clear at 1.75 meters, then 180, 184, 187. And I don't think she's going to be able to continue in these championships. Such a tragedy. Sara Simeone in tears. Un grido di dolore che squarcia il silenzio dello stadio di Helsinki, dove si stanno svolgendo i campionati mondiali del 83. È tragedy, dice il cronista. In effetti, sportivamente parlando, è una tragedia. Sono in molti che stanno pensando che la carriera di Sara Simeone è finita quella sera, e invece la grandezza di campioni del genere è proprio quella di sapersi rialzare. Ancora una volta lei ce la fa, e un anno dopo sta passeggiando in un altro villaggio olimpico, questa volta a Los Angeles, sta cercando una nuova medaglia per chiudere la sua carriera. Anche alle Olimpiadi di Los Angeles c'è un boicottaggio, una specie di ritorsione, quindi questa volta mancano l'Unione Sovietica, la Germania Est, diciamo i paesi del blocco comunista. Questa assenza si sente in molte gare di atletica. La storia del mondo è fatta anche, ahimè, di questi incidenti che rovinano lo spirito olimpico, le aspirazioni di atleti. Immaginate cosa vuol dire prepararsi per anni per un'Olimpiade e poi sentirsi dire non puoi andare perché la nostra nazione ha boicottato le Olimpiadi. Al Coliseum di Los Angeles lei trova un'altra storica avversaria, Ulrike Mayfarth. Due anni prima agli europei di Atene l'aveva anche strappato il record del mondo, era volata a 2,02 m. Bene, 1,97 secondo tentativo, e qui cominciamo già a pensare alla medaglia, un pensierino, a una medaglia. Cominciamo a farci un pensierino. Sara Simeone ha superato i 2 metri. Questa ha superato i 2 metri, Sara Simeone, il primo tentativo di 2 metri, al primo tentativo di 2 metri. Ah, ecco, la Mayfarth ha superato 2,02. È finita. Medaglia d'argento, la Mayfarth vince la medaglia d'oro. Sara arriva fino a 2 metri, mentre la Maifard riesce a passare quell'asticella a 2 metri e 02. Sara però gioisce comunque perché ha raggiunto l'obiettivo di un'altra medaglia olimpica, la terza in 3 Olimpiadi, in un momento della sua carriera in cui c'erano addirittura dei dubbi sulla sua partecipazione. Poi bisogna arrendersi alla consapevolezza che il tempo è scaduto, è impossibile a 33 anni confrontarsi ancora a lungo con atlete di 20 anni, e Sara Simeoni si fa da parte con la certezza di essere stata un simbolo dello sport italiano. E oggi, se andate a Rivoli Veronese, chiedete in giro, tutti vi sapranno indicare la casa della Sara, perché lei è tornata lì, a quella vita semplice di paese in cui, nella quale condividere ricordi di una grande carriera con suo marito e col suo allenatore, che sono la stessa persona, Erminio Azzaro. Lei ha vinto 235 volte delle 307 gare che ha disputato, ha avuto un record italiano che ha resistito per 36 anni, solo nel 2006 è stato superato da Antonietta Di Martino. E l'airone veronese Sara è entrata con un salto, con un balzo nella storia d'Italia e del mondo, ha saputo alzare l'asticella sempre più in alto. I colpi d'ala si fanno anche col sacrificio, con la dedizione e anche formando una strana e formidabile coppia tra allenatore e allenata, e coppia che poi è diventata una grande coppia anche nella vita. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalate via mail al falco@radio24.it se volete qualcosa che noi si racconti, e venite a trovarmi, a trovarci nei nostri social, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.